esempio al 2011 e al 2012, scontrando gli stessi periodi, il numero ad esempio di italiani è aumentato non sensibilmente, però è aumentato di una certa quantità. I nuovi utenti italiani sono passati da 752 a 936, quindi un aumento certamente c'è stato. Certo. Ed è anche colpa delle perdite del posto di lavoro, esatto, che cosa è cambiato? Esatto, perché anche vedevo, proprio facendo delle verifiche anche sulle fasce di età delle nuove utenze, direi molto sensibile una fascia di età tra i 45 e i 64 anni, no? È addirittura vicina al 40% questa percentuale rispetto ai nuovi utenti italiani, ed ecco la fascia di età di persone che per due motivi fondamentali, la perdita di lavoro e anche e soprattutto la separazione dagli affetti familiari, no? Anche il censimento che è stato elaborato di recente dall'Istat insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva proprio messo in evidenza che i senza dimora, con i quali noi ci confrontiamo tutti i giorni, perché buona parte dei nostri utenti sono senza dimora, soffre appunto per queste due cause, da una parte la disoccupazione e dall'altra parte la perdita degli affetti familiari. Certo. Padri separati oppure persone che non hanno più una rete parentale che in qualche modo li tuteli.